Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Oggi mi colpisce la grande quantità di folla, di gente che segue Gesù. Qui si dice che Gesù si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla, dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano, da Tiro, Sidone. Ecco, tutti cercano Gesù. E qual è il motivo per cui lo cercano? Soprattutto perché lui aveva guarito tante persone. La folla è colpita da queste guarigioni, è colpita dal vedere tutti questi prodigi. Ed è per questo che Gesù dice delle frasi che per noi sembrano incomprensibili. Dice che anche gli spiriti impuri, quando vedevano Gesù, cadevano ai suoi piedi e gridavano: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Noi non capiamo, ma perché Gesù dice di non svelare chi egli fosse? Ma come, Gesù, tu non sei venuto per manifestarti come il Messia? Perché allora non bisogna svelare chi tu sei? Ecco, Gesù ci vuole far capire questo, che la vera identità di Gesù non è nei prodigi, non è in queste guarigioni, ma la vera identità di Gesù è che lui è il nostro Salvatore, che lui ha parole di vita eterna, che lui è tutto ciò che noi desideriamo, cerchiamo, vogliamo. Allora, perché Gesù non vuole che questi spiriti dicano chi egli sia? Cioè che lui è il figlio di Dio, perché altrimenti la gente collegava l'identità di Dio come colui che ha il potere sulle malattie, sui miracoli. E quindi gli sarebbe sfuggita la cosa più importante, che Gesù è veramente Dio, ma non tanto perché guarisce dalle malattie, quello è soltanto per dare una dimostrazione della sua divinità, ma è Dio in quanto vuole il nostro bene e la nostra felicità. Ed è per questo che Gesù vuole una barca. Perché? Che cos'era la barca? Se vi ricordate, la barca è sempre quello strumento che il Signore usa per rivolgersi alle masse e istruirle e predicare e parlare loro e dare loro delle motivazioni di vita. Ecco, Gesù non vuole la nostra fede basata su facili entusiasmi, la nostra fede che va dietro segni e prodigi, cose sensazionali, ma vuole che il nostro cuore, la nostra fede siano plasmati dalla sua parola, perché è la sua parola che ci dà la vita, è la sua parola che ci dà una motivazione per andare avanti, perché le malattie possiamo guarire temporaneamente dalle malattie, ma siamo lo stesso destinati a morire a questa vita terrena. Allora Gesù non vuole che noi identifichiamo la salvezza con la guarigione. La salvezza è un'altra cosa. Gesù non è venuto a portare la semplice guarigione, perché la guarigione, anche se uno è sano, muore lo stesso. Non è quello che conta. Quello che conta è la salvezza, ossia il fatto che Gesù è venuto per sconfiggere la morte eterna. La morte non ha più potere sull'uomo. Allora Gesù vuole questo. Ecco perché non vuole che subito si manifesti la sua identità, altrimenti la gente lo considera soltanto come un tappabuchi, come il rimedio ai propri mali, ma gli sfugge il motivo vero della sua divinità, che è appunto quello di essere tutto ciò che l'uomo desidera e cerca. Allora oggi facciamo il proposito di non seguire Gesù con facili entusiasmi, ma di seguire la sua parola, perché altrimenti il nostro modo di fare, il nostro modo di comportarci si rivelerà alquanto basso, alquanto meschino. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma. Si sbaglierà di rado se si ricondurranno le azioni estreme alla vanità, quelle mediocre alle abitudini e quelle meschine alla paura. Si sbaglierà di rado se si ricondurranno le azioni estreme alla vanità, quelle mediocri alle abitudini e quelle meschine alla paura. Buona giornata.